350. Umido incassato. Fate una balsamella con farina grammi 150, burro grammi 70, parmigiano grammi 30, latte decilitri 6. Prendete poi uova numero 3, sale quanto basta, spinaci un mazzetto. Gli spinaci lessateli, spremeteli e passateli dal setaccio. Le uova scocciatele quando ritirate la balsamella dal fuoco e alla metà della medesima date il color verde coi detti spinaci. Prendete uno stampo di rame fatto a ciambella col buco in mezzo e scannellato all'ingiro. Ungetelo bene con burro d'accio e riempitelo prima con la balsamella verde, poi con la gialla e fatela restringere a bagnomaria. Sformatela calda e riempitela nel mezzo con un intingolo ben fatto di rigaglie di pollo e di animelle, oppure di bracioline di vitella di latte con odore di funghi o tartufi. Il manicaretto tiratelo a cottura col burro e col sugo di carne, oppure in altra maniera, facendo in modo che riesca delicato, e vedrete che questo piatto farà bellissima figura e sarà lodato.